Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Ricominciando tre volte con i consigli del farmacista, Charles fece dunque costruire dal falegname e dal fabbro ferraio una cassetta del peso di 8 libbre circa, in cui non si faceva certa economia di ferro, legno, latta, cuoio, viti e madreviti. Ma per decidere quale tendine tagliare a Hippolyte era necessario sapere prima che specie di piede storto avesse. Se era un equino, dunque, si imponeva il taglio del tendine d'Achille, salvo poi attaccare il muscolo tibiale per liberarsi dal varo. Il medico, infatti, non aveva il coraggio di tentare 2 operazioni in un colpo solo, anzi, già tremava per la paura di intaccare qualche parte importante, ma a lui ignota. Charles incise la pelle. Si sentì uno scricchiolio secco. Il tendine era tagliato. L'operazione era finita. Hippolyte non la smetteva di meravigliarsi. Si piegava sulle mani di Bovary, gliele ricopriva di baci. «Su, calmati via!» gli diceva il farmacista. «Avrai tempo per testimoniare la tua gratitudine al tuo benefattore!» E scese a raccontare il risultato ai 5 o 6 curiosi che indugiavano in cortile aspettando di veder riapparire Hippolyte già guarito e spedito nei suoi passi. Dopo aver applicato al paziente l'apparecchio meccanico, Charles se ne tornò a casa. Emma lo aspettava in ansia sulla soglia, gli buttò le braccia al collo. La serata fu un incanto, traboccò di confidenze, di sogni in comune. Parlarono della loro futura fortuna, dei miglioramenti da introdurre in casa. Lui sognava l'estendersi della sua fama, l'aumentare del suo benessere, il perpetuarsi dell'amore di sua moglie. Lei assaporava la felicità del riscatto in un sentimento nuovo, più sano, veramente migliore, di provare finalmente un poco di tenerezza per quel poveraccio che la adorava. In realtà, a un certo punto, il pensiero di Rodolphe le passò per la testa, ma i suoi occhi cercarono Charles. Anzi, notò con sorpresa che i denti del marito non erano per nulla brutti. Erano già a letto quando Omé, nonostante le proteste della serva, fece irruzione nella loro camera, sventolando un foglio ancora umido d'inchiostro. Era la notizia da lui destinata al fanale di Rouen. Desiderava che la leggessero. «Leggetecela voi!» disse Bovary. E quello declamò. «Martedì la nostra cittadina di Yonville è stata eletta a teatro d'un'esperienza chirurgica che è al tempo stesso un atto d'alta filantropia. Il signor Bovary, uno dei nostri medici più distinti...» «Oh, è troppo!» diceva Charles. L'emozione lo soffocava. «Ma no, assolutamente no, ci mancherebbe!» «Il signor Bovary, eccetera, ha operato ad un piede storpio. Non ho messo il termine scientifico perché, sapete, in un giornale...» «Avete ragione, andate avanti», disse Bovary. «Vado avanti. Il signor Bovary, eccetera, ha operato, eccetera, tale Hippolyte Tautin, stagliere da oltre 25 anni al servizio dell'albergo Leon d'Oro. La novità del tentativo e la notorietà del paziente avevano provocato un tal concorso di popolo da determinare un autentico arresto di circolazione davanti alla locanda. L'operazione del resto è stata eseguita quasi per incanto. Solo poche gocce di sangue sono affiorate sulla pelle, come per dire che il tendine ribelle si era finalmente arreso all'assalto dell'arte. Il paziente è cosa straordinaria, ma noi l'affermiamo de visu, non ha accusato il minimo dolore. Il suo stato, sino a questo momento, non lascia affatto desiderare. Tutto porta a credere che la convalescenza sarà breve. Onore dunque ai generosi scienziati! Onore a questi infaticabili spiriti che consacrano le loro veglie al miglioramento o quantomeno al sollievo della specie! Terremo informati i nostri lettori delle successive fasi di questa cura eccezionale. Questo però non impedì che 5 giorni dopo la signora Lefrançois facesse la sua apparizione in casa del medico tutta sconvolta, gridando: «Aiuto! Muore! Impazzisco!» Charles si precipitò verso il Leon d'Oro. Il farmacista, che lo vide attraversare la piazza di corsa senza cappello, abbandonò il suo negozio. Arrivò subito dopo il medico. Ansava, rosso, agitato, chiedeva a tutti quelli che salivano la scala insieme a lui: «E allora cos'ha il nostro interessante strefopodo?» Si torceva il loro interessante strefopodo in atroci convulsioni. Continuava a torcersi tanto che l'apparecchio meccanico in cui era chiuso il suo povero piede pareva voler sfondare il muro a forza di colpi. Con 1000 precauzioni per non spostare l'arto operato, Charles tolse la cassetta e si trovò allora davanti a uno spettacolo orrendo. Il piede non aveva più forma, era un unico gonfiore. La pelle appariva prossima a rompersi, tutta chiazzata dalle ecchimosi provocate dalla famosa macchina. Ippolite si lamentava da tempo di sentire male, ma nessuno gli aveva dato retta. Invece si dovette riconoscere che non aveva proprio tutti i torti e lo si lasciò libero per qualche ora. Ma appena l'edema fu almeno in parte scomparso, i due scienziati ritennero opportuno richiudere l'arto nell'apparecchio e questa volta ve lo strinsero maggiormente. Non si doveva accelerare il processo di guarigione? 3 giorni dopo, finalmente, dato che Ippolite non ce la faceva più a resistere, tolsero di nuovo la cassetta e si meravigliarono del risultato della cura. Una livida tumefazione si estendeva su per la gamba, qua e là erano flettemi, ne trasudava un liquido nerastro. La cosa prendeva una brutta piega. La cancrena, infatti, andava salendo inesorabile. Anche Bovary se ne stava ammalando. Capitava all'albergo a ogni ora, a ogni attimo. Ippolito lo guardava con occhi traboccanti di spavento. Balbettava tra un singhiozzo e l'altro: «Ma quando guarirò? Oh, salvatemi! Come sono disgraziato! Allora il medico scappava raccomandandogli di rispettare la dieta. «Ah, non starlo mica a sentire, tu!» replicava la signora Lefrançois. «Ti hanno già tormentato abbastanza. Ti indeboliresti ancora di più. Tieni, mangia!» E gli offriva brodi sostanziosi, bistecche consistenti, fette di lardo e ogni tanto anche gran bicchieri d'acqua vite che lui non aveva il coraggio di portare alle labbra. Il reverendo Bournisien, avendo saputo che l'infermo peggiorava, lo volle vedere. Cominciò con il compiangerlo per quel guaio, ma si affrettò a dichiarare che in fondo, più che di rattristarsi, era il caso di rallegrarsi. Non era la manifestazione della volontà del Signore? Non era l'occasione propizia per una riconciliazione con il cielo? «E siamo sinceri», diceva il prete in tono paterno. «E tu li trascuravi un poco i tuoi doveri? Ti si vedeva di rado all'ufficio divino? E quanti anni sono che non t'avvicini alla sacra mensa? Capisco che le tue occupazioni e il turbine del mondo abbiano potuto distoglierti dal pensiero della tua salvezza, ma questo è il momento della riflessione. Così, solo per precauzione, perché non provi a recitare mattina e sera un'Ave Maria piena di grazia e un Padre nostro che sei nei cieli? Sì, da bravo fallo, per me, per fare un piacere a me. E cosa ti costa? Me lo prometti?» Il malcapitato promise. Il farmacista non mancò di indignarsi contro quelle manovre da prete, come definì l'iniziativa del rivale. Quelle manovre da prete, sosteneva Omé, non potevano che nuocere al regolare decorso della convalescenza dell'infermo. Lo diceva e lo ridiceva alla vedova Lefrançois. «Oh, ma lasciatelo stare! Lasciatelo in pace con il vostro misticismo! Finirete per rovinargli il morale!» Ma la brava donna si rifiutava ormai di prestargli ascolto. Anzi, vedeva nel farmacista la causa di tutto. Per puro spirito di contraddizione, attaccò al capezzale di Ippolite un'acquasantiera piena con un ramoscello di bosso. A ogni modo, la religione non pareva aiutare il malcapitato più della chirurgia. L'invincibile putredine continuava a spingersi dall'estremità verso il centro. Si aveva un bel variare le posizioni e cambiare cataplasmi. Ogni giorno i muscoli si rilassavano maggiormente E alla fine Charles rispose con un cenno affermativo quando la vedova Lefrançois gli domandò se non fosse il caso, data la gravità della situazione, di far venire il signor Canivet, una celebrità di Neuchâtel. Dottore in medicina, maturo dei suoi 50 anni, soddisfatto della sua buona posizione e soprattutto sicuro di se stesso, l'illustre collega non si fece alcuno scrupolo di ridere sprezzantemente quando si trovò davanti quella povera gamba incancrenita sino al ginocchio. Dopo aver dichiarato chiaro e tondo che ormai non restava che amputarla, andò dal farmacista a blaterare contro gli asini che avevano potuto ridurre un disgraziato in simili condizioni. Afferrato Omè per la bottoniera della redingote, vociava nella farmacia: «Ecco le belle invenzioni di Parigi! Ecco le grandi idee di quei signori della capitale! È come lo strabismo, come per il cloroformio, come per la litotrizia, un mucchio di mostruosità che il governo dovrebbe proibire! Eh già, vogliono fare i furbi quelli, rimpinzano di rimedi, infischiandosene delle conseguenze!» Noi non siamo così bravi, noi altri, noi non siamo delle arche di scienza, non siamo dei figurini di moda, non siamo delle anime belle, noi altri, noi siamo soltanto degli empirici, dei praticoni, noi altri, noi pensiamo a guarire i malati, ma non ci sogneremo mai di operare qualcuno che sta benone, raddrizzare i piedi storti. Ma dico, è possibile raddrizzare i piedi storti? Sarebbe come volere, ad esempio, stirare un gobbo! Omè soffriva ascoltando un simile discorso, ma nascondeva il proprio disagio sotto un sorriso da cortigiano. Non poteva guastarsi con il signor Canivet, le cui ricette arrivavano ogni tanto anche a Yonville. Così non assunse la difesa di Bovary, non si provò neppure a obiettare. Sacrificò la propria dignità agli interessi ben più seri della bottega. Che avvenimento fu per il paese l'amputazione eseguita dal signor Canivet. Tutti gli abitanti s'erano alzati prima quel giorno e la via principale, sebbene formicolasse di gente, aveva un aspetto funebre, quasi stesse per avvenire un'esecuzione capitale. Dal droghiere fervevano le discussioni sulla malattia di Polite, i negozi non vendevano nulla e la signora Tuvache, consorte del sindaco, non abbandonava la finestra ansiosa di non lasciarsi sfuggire l'arrivo della celebrità di Neuchâtel. E finalmente costui arrivò. Guidava personalmente la carrozzella. Entrò come un turbine sotto il portico del Leon d'Oro, gridò che gli staccassero il cavallo e volle andare in stalla a controllare se la bestia mangiasse bene l'avena. Prima di occuparsi dei suoi pazienti, badava sempre alla migliore sistemazione della sua giumenta e della sua carrozzella. Anzi, a questo proposito si diceva «un vero originale, signor Canivet», e lo si stimava anche di più proprio per quell'incrollabile strafottenza. L'universo intero avrebbe potuto andare in malora sino all'ultimo uomo. Lui non avrebbe certo rinunciato alla più insignificante delle sue abitudini. Omè si presentò. «Conto su di voi. Siamo pronti? Avanti?» disse il dottore. Ma il farmacista arrossì, confessò di essere troppo sensibile per assistere a una simile operazione. Il dottore disse che qualcuno doveva pur tenergli fermo quell'arto. Si mandò a cercare l'estibudois e il signor Canivet, rimboccatesi le maniche, passò nella sala del biliardo, mentre il farmacista restava con Artemise, lo stessa, più bianche dei loro grembiuli, a origliare dietro la porta. E intanto Bovary non s'azzardava a muoversi di casa. Era giù in sala, seduto accanto al caminetto spento. Aveva il mento sul petto, le mani giunte, gli occhi sbarrati. Che disgrazia, pensava. Che rovina! Eppure lui aveva preso tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Ci s'era messa di mezzo la fatalità. Chi gli avrebbe dato retta? Se Hippolyte fosse morto prima o poi, l'assassino sarebbe sempre stato lui. E come se la sarebbe cavata durante le visite, quando lo avessero interrogato su quell'argomento? Forse aveva commesso un errore nonostante tutto. Cercava, ma non trovava. Anche i più famosi chirurghi del resto sbagliavano a volte. Ecco cosa non avrebbe mai voluto credere. E come avrebbero riso invece alle sue spalle. Che vergogna! La faccenda si sarebbe risaputa sino a Forges, sino a Neuchâtel, sino a Rouen, ovunque. E qualche collega avrebbe anche potuto scrivere contro di lui. Sarebbe seguita una polemica. Lui sarebbe stato costretto a rispondere sulle gazzette. Lo stesso Hippolyte poteva intentargli causa. Ormai si vedeva disonorato, distrutto, perduto. E la sua immaginazione, assaltata da un'infinità di ipotesi, era squassata come un barile vuoto, spinto al largo dalle onde. Thank you. Emma gli sedeva davanti, lo guardava. Lei non divideva la sua umiliazione, ne pativa un'altra. Come aveva fatto a immaginare che un simile ometto potesse valer qualcosa? Non ne aveva già più e più volte toccato con mano la mediocrità? Ora Charles era in piedi, andava in su e in giù per la stanza. Le sue scarpe gemevano sull'impiantito. «Ma mettiti a sedere, mi dai sui nervi!» protestò lei. Tornò a sprofondare nella poltrona. Come? Come aveva potuto ingannarsi ancora una volta? Lei così intelligente! Del resto, che deplorevole mania era la sua di sperperare l'esistenza in continui sacrifici. Si ricordò tutte le sue aspirazioni al lusso, le privazioni della sua anima, le bassezze del matrimonio, della vita in comune, i suoi sogni caduti nel fango come rondini ferite, tutto quel che aveva desiderato, tutto quel che s'era negato, tutto quel che avrebbe potuto avere. E perché? Perché mai? Un grido straziante lacerò il silenzio che dominava il paese. Bovary sbiancò, quasi stesse per svenire. Lei aggrottò nervosamente le sopracciglia, poi tornò ai propri pensieri. Tutto per lui, per quell'essere inammissibile, quel disgraziato che non capiva nulla, che non sentiva nulla. Come avrebbe potuto altrimenti restarsene tanto pacifico, senza un solo sospetto, senza il minimo sospetto che ormai la vergogna del suo nome avrebbe insozzato anche lei? E lei che s'era sforzata di amarlo, lei che s'era pentita, piangendo, di aver ceduto a un altro. E se fosse stato un valgo? Sbottò Bovary pensieroso. All'urto improvviso di quella frase caduta sui suoi pensieri come una palla di piombo su un piatto d'argento, Emma trasalì, alzò la testa per cercare di afferrare il senso delle parole di Charles. Così si guardarono, meravigliandosi nel vedersi tanto vicini, nonostante l'irreparabile distanza delle loro coscienze. Charles osservava Emma con uno sguardo turbato da ubriaco, mentre si impietriva ad ascoltare gli ultimi urli dell'amputato, un susseguirsi di lunghe modulazioni rotte da strappi acuti, simile al remoto ululare d'una bestia sgozzata. Emma si mordeva le labbra livide e, girando e rigirando tra le dita un rametto strappato dal polipaio, concentrava su Charles le pupille ardenti, due frecce di fuoco pronte a scoccare. Odiava tutto in lui adesso. La faccia e l'abito, quel che non diceva oltre a quel che diceva, l'intera persona, insomma, il fatto stesso che esisteva. Si pentiva come di un crimine della virtù avuta in passato. Quanto restava di quel candore crollava sotto i furiosi colpi dell'orgoglio. Si sfrenava ad assaporare ogni crudele ironia dell'adulterio trionfante. Il ricordo dell'amante le tornava con un vertiginoso potere di attrazione. Travolta verso quell'immagine da un nuovo entusiasmo, anelava a gettare in quell'abisso tutta la sua anima. Charles era ormai così staccato dalla sua esistenza, assente per sempre, confutato e annullato, come se stesse per morire, come se agonizzasse sotto i suoi occhi. Un rumor di passi sul marciapiede. Charles andò a guardare. Attraverso le imposte socchiuse vide là, dalla parte del mercato in pieno sole, il dottor Canivet asciugarsi la fronte col fazzoletto. Homais gli andava dietro, portando uno scatolone rosso. Si dirigevano verso la farmacia. Allora il suo scoraggiamento ebbe bisogno di tenerezza. Charles si girò verso la moglie, la pregò. «Dammi un bacio, cara!» «Lasciami stare!» protestò lei. Avvampava di collera. Thank you. cos'hai? Cos'hai adesso? Ripeteva lui stupefatto. Calmati, dominati. Eppure lo sai che ti amo. Vieni qui, su. Basta! Gridò lei. La sua faccia era terribile. Scappando dalla sala, sbatté la porta con una tale violenza che il barometro si staccò dal muro, andò a pezzi per terra. Charles si lasciò cadere nella sua poltrona. Era sconvolto. Continuava a domandarsi cosa potesse mai avere la moglie. Sospettava una malattia nervosa. Gli occhi gli si riempivano di lacrime alla confusa sensazione dell'aleggiare intorno di qualcosa di funesto e incomprensibile. Quando Rodolphe arrivò in giardino quella sera, trovò l'amante in attesa in fondo alla scaletta. Si abbracciarono. Ogni loro incomprensione si fuse come neve al sole di quel bacio. Elsa Galbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it